Spazio, estate, viaggi. Terza puntata. Da Rosario alla Banda, Argentina. Radio Onda d'Urto. Y estamos conectados con Espacio Estate. Los colores como en un pelotero. Abre la saca y tire del gotero. Mi cabeza como en un lavadero. Bueno, ahora canto por si muero. Espacio Estate. Espacio Estate. Espacio Estate. Espacio Estate. Un programa Don Pierce sulla frequenza di Radio Onda d'Urto. Nunca sabemos bien qué es lo que queremos, pero vamos a buscar lo negro, no retrocedemos. Ciao, siamo Bless the Ladies e anche noi da Bruxelles ascoltiamo Spazio Estate. Oh yeah, baby. Ciao, sono Diana e anche io ascolto Spazio Estate. Yes, baby. Reventamos el juego. Los colores como en un pelotero. Abre los ojos y tire del gotero. Mi cabeza como en un lavadero. Bueno, ahora canto por si muero. Los colores como en un lavadero. Abre los ojos y tire del gotero. Mi cabeza como en un pelotero. Bueno, ahora canto por si muero. Tú la canga tan tornada de cadena. A veces merecemos hacer lo que tenemos ganas. Criaturas animadas. Bonsoir, mi chiamo Florent Bénard, dalla Bretagne. Quando apro, stampo una boccia di birra, io mi ascolto sempre Don Pierce, Spazio Estate. Oh yeah, baby! Me preguntan dónde estoy, reventamos el juego. Los colores como en un pelotero. Abre los ojos y tira el gotero. Un caro saluto a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori di Radio Onda d'Urto. Dallo studio di El Valle, Oceano Pacifico, Colombia, eccoci di ritorno con la terza puntata di Spazio Estate Viaggi, programma di intrattenimento culturale firmato Don Pierce. Un viaggio radiofonico attraverso il Sud America che vi terrà compagnia per la prossima ora e mezza. E il pezzo che avete ascoltato si intitolava Convoy Jarana di Woz, giovane rapper di Buenos Aires, classe 1998, conosciuto per le sue numerosissime partecipazioni a contest di freestyle. King Records. Dímelo, baby, sempre original gangsta. Dímelo, so. Prima del sommario della puntata, qualche messaggino che ci è arrivato in settimana a proposito delle puntate precedenti. Eccoli qua. Quando escucha il tra, tra, tra, tra. Yo soy un perro, pero de raza. Hoy hay noche de entierro, pero en mi casa. No me diga que no, que eso me atrasa. Esos bobos que te tiran son guasa guasa. No te peines que hoy hay. Ciao, Giacomo. Ascolta, allora ho appena finito di ascoltare la prima puntata qua in cuffia e l'ho cominciato ieri andando a farmi una passeggiata, dopo ovviamente non mi ha troppo tempo da prendermi da solo, quindi l'ho finita oggi di ascoltarla. Mi ha chiesto il feedback, beh, è eccezionale per secondo me è eccezionale, guarda, non so cosa dirti, complimenti e ti dirò. Che mi veniva un po' dei brividi a sentirla, cioè boh. che è sempre un strano effetto quando si parla dei viaggi nel giro, specialmente nell'intervista mi è piaciuto il fatto che ha spiegato del lago Escondido, che ha fatto la manifestazione perché purtroppo succede delle robe che fa schifo, ma l'Urighi ne ha sofferto tanto più di noi altri di queste appropriazioni da parte del capitale straniero, lei che purtroppo mi dice che sta succedendo anche qua in Italia adesso sempre di più. Capitali esteri che investe qua e un po' alla volta ne porta via tante robe anche qua. Boh. Ascolta, beh, si sta eccezionale. Bravi, bravi, bravi te, bravo Fernando e anche Mirko. Vabbè, dai, buon pomeriggio, adesso boh, 10 minuti a tagliare un po' di erba con il cespugliatore. Vabbè, ciao, ciao carissimo, ciao. Ciao Pera, senti, ma tu per caso sai come fare ad ascoltare Radio Onda d'Urto e il tuo pezzo, però riprenderlo da dove sono rimasta, diciamo? Io non saprei come fare, perché è lungo e non ho il tempo di ascoltarlo tutto intero, no? Ascolto a pezzi in macchina, però mi fa ricominciare sempre da capo. Magari ascoltarlo in un altro posto che non sia il sito di Radio Onda d'Urto. Illuminami, grazie. Dime che tu haces, baby, what's up, gonna do? Esta chimba so. Dime, mami, si te gusta bailar reggaeton. Que la noche se... Allora, lo finisco domani. Comunque, no, non è noiosissimo, ma non capisco bene, cioè, se vuole essere tipo un podcast o una roba radiofonica, che ci sono questi intermezzi musicali, perché sono tanto lunghi gli intermezzi musicali. Per il resto, no, è figo. Bisogna... no, a me piace, cioè, è piaciuto, interessante. E cosa volevo dire? Che non mi ricordo più. Niente, non mi ricordo. Comunque no, basta. E basta. Per il resto secondo me è una roba figa. Cioè, me lo sono ascoltata volentieri, mi ha preso, devo dire. Bella, grazie per i feedback, soprattutto quelli negativi che mi aiuteranno a migliorare. Spazio, estate, viaggi. Quindi questi messaggi che abbiamo ricevuto dopo la messa in onda dei primi due episodi, e vi ricordiamo che se anche voi volete scriverci e interagire con Spazio Estate, potete mandarci i vostri messaggi anche vocali tramite i social Facebook e Instagram all'indirizzo donpears.it. In queste pagine, tra l'altro, troverete le foto e i video delle storie del viaggio in bici. Dopo i primi messaggini vi presentiamo immediatamente il programma di questo terzo episodio. Nella prima parte proseguirà il racconto di viaggio di Giacomo, cicloviaggiatore inesperto che ha pedalato per 5.000 km in 3 mesi da Buenos Aires a Lima. La bicicletta ci porterà nel luogo dove abbiamo registrato l'intervista per questo episodio, la scuola popolare Baci Tablada di Rosario. Siamo andati a visitare questa scuola autogestita e autofinanziata che ha sede nel quartiere più disagiato della città. Laura Scopetta è professoressa di storia e gestisce il baccellierato popolare assieme ad altri compagni e compagne. Ci spiegherà dunque quali sono le ragioni storiche che hanno portato alla fondazione di questa scuola, nonché le sfide presenti e future per questo progetto. E a chiudere non mancherà nemmeno questa volta la rubrica di Mirko. In questa puntata ci parlerà dello scrittore argentino Leopoldo Marechal, poeta del gruppo avanguardista Martín Fierro. Cattolico e peronista convinto, Marechal è stato per questo isolato dall'intelligenza intellettuale argentina, tanto che egli stesso si definirà, parafrasando Perón, il poeta deposto. Il suo romanzo capolavoro, Adán, Buenos Aires, è un'opera imprescindibile, soprattutto per un pubblico lettore italiano, visto che la fonte primaria di Marechal è stata l'opera di Dante Alighieri. Qualche istante di musica e poi cominciamo con il racconto del viaggio in bici. Thank you. Nelle scorse puntate di Spazio Estate Viaggi vi ho raccontato dei primi chilometri in bici sulle strade che ho percorso tra Buenos Aires e Lima. La prima parte dei 5.000 chilometri si è svolta tra la capitale argentina e la città di Rosario, provincia di Santa Fe. Per affrontare i 270 chilometri che separano le due città ci ho messo quasi 5 giorni. Un'enormità rispetto a quelle che poi saranno le tappe finali del viaggio. Ma sono la prima esperienza. Sono un cicloviaggiatore inesperto e ho deciso di avventurarmi con la mia bicicletta in Sud America. Vi ho già raccontato delle varie scelte e preparativi prima della partenza, della mia bicicletta, dei miei amici a Buenos Aires, della prima parte dell'itinerario che ho scelto di percorrere, ovvero arrivare a Salta, nel nord dell'Argentina, che dista circa 1700 km dal mio punto di partenza. In questa trasmissione vi ho dettagliato delle prime pedalate che mi hanno portato a Rosario, città di 1 milione di abitanti che si trova sulle sponde del fiume Paraná, il secondo più grande di tutto il Sud America. Vi ho raccontato della traversata di oltre 30 km in kayak con gli amici a Rosario e del mio primo incontro con l'area ecofemminista del laboratorio ecologista della città, di cui intervista avete sentito nella seconda puntata. Durante il mio soggiorno rosarino, di quasi una settimana, mi è capitato diverse volte che mi raccontassero delle problematiche ambientali che riguardano questo luogo, il cui fiume è parte predominante dell'ambiente naturale. Ho sentito parlare di humedales, ossia delle zone umide. Documentandomi e facendomi spiegare, ho capito che si tratta, grosso modo, di enormi aree di terreno, generalmente pianeggianti, la cui superficie è naturalmente allagata in modo permanente o intermittente. Coprendosi regolarmente di acqua, il suolo diventa saturo, privo di ossigeno e dà origine a un ecosistema ibrido tra acquatico e terrestre. Le humedales sono minacciate dalla presenza umana, in particolare da allevamenti, coltivazioni intensive, settore immobiliare e minerario. Ho pedalato lungo il fiume in mezzo ai campi coltivati per alcuni giorni. Mi domandavo dove finissero le coltivazioni, in particolare quelle della soia. I coltivi infatti sono enormi, nulla a che vedere con i piccoli appezzamenti che vediamo di solito in pianura padana. Durante le pedalate tra Buenos Aires e Rosario mi è sembrato di vedere quasi esclusivamente piante di soia. Avevo già un'opinione abbastanza negativa sul fatto di alimentarsi in soia, soprattutto quando vivevo in Italia. Nello stivale se ne coltiva poca e la maggior parte si importa. Tante volte mi è capitato, nelle sfuserie della provincia bresciana, di trovare prodotti a base di soia, anche biologici e di qualità, che però erano stati prodotti in Germania con soia proveniente dal Brasile o cose così. Conseguentemente mi domandavo se fosse un acquisto etico o se forse era meglio comprarmi un pezzo di formaggio dal contadino che lo produce a pochi chilometri da casa mia, nella provincia bresciana. Inoltre, con il formaggio locale spendevo la metà rispetto a quando compravo il tofu. Poi so bene che le vacche padane si nutrono anche di cereali e soia originari dal Sud America. È sempre difficile, poi mi dico, essere coerenti con se stessi e superare tutte queste contraddizioni. Mi pongo di conseguenza numerosissime domande, pedalando in silenzio in mezzo alla pianura argentina. E non trovando risposte facili, decido di informarmi meglio. Tramite un amico mi metto in contatto con Leandro dell'associazione multisettoriale Humedales di Rosario, che mi spiega un po' di questioni legate al fiume Paraná e dintorni. Leandro inizia subito il discorso incolpando gli esseri umani di molte delle problematiche legate al fiume Paraná. Mi racconta, come mi dicevano i miei amici di Rosario, che il livello dell'acqua continua a scendere da anni e sempre più velocemente. Attraversando buona parte del cono americano sud, i problemi sono prodotti e riguardano vari paesi, che naturalmente non li affrontano insieme, o meglio, non li affrontano proprio. Brasile, Paraguay, Bolivia, Uruguay e Argentina continuano a sfruttare selvaggiamente il fiume, facendo finta di non capire che l'impronta umana lo sta distruggendo. Tra l'altro, mi racconta Liandro, molti degli investimenti in agricoltura, allevamento, settore immobiliare, provengono da paesi terzi, talvolta molto lontani dal letto del fiume. Gli interessi in gioco sono enormi e molteplici. Una minuscola parte di persone, dunque, si arricchisce enormemente alle spese dell'ecosistema e di chi lo abita. Liandro mi conferma che le monoculture, in primis la soia, richiedono quantità enormi di agrotossici che contaminano tutto, la flora, la fauna, l'acqua e di conseguenza anche gli esseri umani. Dove non ci sono i campi, ci sono gli animali. Nel 2017, nella sola zona del delta del Paraná, si producevano circa 250.000 capi di bestiame. Nel 2020 erano oltre 1 milione. Si tratta quindi di un modello capitalistico integrato. Per produrre soia bisogna disboscare. Con la soia, rigorosamente transgenica, si alimentano gli animali. Gli esseri umani mangiano gli animali. L'acqua del fiume è quindi sempre di meno. Serve per irrigare i campi, per dissetare gli animali, per pulire le stalle. È anche per questo che le zone umide intorno al fiume diventano sempre più piccole. Gli incendi che ne conseguono velocizzano questo processo. L'Argentina non ha una legge per proteggere le zone umide. Gli attivisti e le attiviste ambientali la chiedono da anni. Moltissime le mobilitazioni. Discorso è semplice. Se non si proteggono i beni comuni, come il Paraná, la gravità della situazione non ha limiti di peggioramento. Questo sempre me lo dice Leandro. La preoccupazione maggiore e continua riguarda la salute delle persone. Per esempio, quando scoppiano gli incendi, la città di Rosario si copre di fumo. In piena pandemia, durante la quale sono aumentati gli incendi nelle zone umide, si è studiato e dimostrato come al contempo siano aumentate anche le malattie legate all'apparato respiratorio, come le infezioni polmonari e le allergie. Inoltre, questo tipo di sistema produttivo ha aumentato le diseguaglianze sociali e la povertà. Sono aumentati gli allevamenti, la produzione dei cereali e le esportazioni. Contemporaneamente sono cresciute povertà, indigenza e disoccupazione. A Rosario, per esempio, la povertà coinvolge più del 50% della popolazione. Liandro ci tiene infine a specificare che il problema è presente, non riguarda il futuro. È necessario agire subito. Le persone, conclude, sono molto preoccupate. I governanti, invece, latitano. Distruzione di flora e fauna, incendi, uso massivo di pesticidi, povertà. Questo è il modello capitalista che sta ammazzando il Paraná e le preziose zone umide che lo circondano. Oltre a Liandro, prima di ripartire, incontrò anche Laura Scopetta, professoressa di storia alla Scuola Popolare di Tablada, Rosario, di cui tra pochi minuti sentirete l'intervista. Dopo una settimana passata in città, riprendo la bici e lascio Rosario, ancora una volta malinconico. Avevo conosciuto, anche qui, della gente veramente in gamba, con la quale mi sono trovato bene e mi sono divertito da matti. Ma non riesco a frenare la mia voglia di partire, di pedalare tutto il giorno, di sentirmi sulla strada senza un tetto sopra la testa. Me ne vado con una canzone che dice «No voy a parar», che mi ha consigliato il mio amico Andrés di Rosario. Non mi fermerò. L'autore è Charly García, icona della musica rock argentina, considerata una delle figure più importanti e influenti della storia della musica popolare argentina e latinoamericana. Questa canzone si intitola Funky. We'll be right back. Ogni giorno che passa la mia bici macina sempre più chilometri. Primo giorno, Rosario Totoras, 71. Secondo giorno, Totoras Cagnada Roschin, 75. Terzo giorno, Cagnada Roschin Raffaela, 94. Quarto giorno, Raffaela Arruffò, 123. Quinto giorno, Arruffò Malbran, 125. È proprio a Malbran che riesco di nuovo a sentirmi a casa. È un piccolo paese di 5 isolati in tutto, sperduto nella campagna, a 40-50 km dagli altri paesi. In tutto il villaggio c'è solo una macelleria e un negozio di frutta e verdura. È molto caldo e ho battuto il mio primo record personale di questo viaggio, 125 km in un giorno. Mi merito di dormire in un letto e soprattutto di farmi una doccia. Chiedo una camera al primo albergo che trovo, l'unico del paese, una locanda da 5 camere a 4 euro a notte. Incredibilmente è completo. Mi indicano però una casa poco lontana. Lì dovrebbero avere delle camere in affitto. Incontro Juan. Oltre a casa sua, ha un paio di camere economiche da affittare. Mi accordo con lui per passare la notte. Poi il discorso si allunga ed iniziamo a parlare di viaggi, di vita, di Argentina. Juan ha solo un paio d'anni più di me, ma ha impostato la sua vita in maniera totalmente differente. Al mio contrario, è proprietario di una casa, di un terreno, di una specie d'albergo, di un'automobile. È sposato e ha una figlia. Lavora presso il comune di Malbran, che è appunto il suo villaggio. Potrebbe anche andare a lavoro a piedi, saranno 500 metri da casa sua. Ma prende la macchina, così può salutare tutti i membri del villaggio, fare eventuali spese e soprattutto non fare movimento. Juan è molto gentile e non solo mi porta, naturalmente in auto, a visitare tutto il paese, una scampagnata da 20 minuti ma andando tranquillo. Mi invita poi anche a cena, così da conoscere Marta, la moglie, e Julia, la figlia. Mi capita così un'allegra serata in famiglia, accompagnato dalle più buone empanadas de carne fatte in casa di tutto il mio viaggio. A cena c'è anche un suo amico, Emanuel, che mi fa scoprire la cosa più interessante del luogo. Infatti, in una piccola costruzione che non avevo notato, nel giardino di casa di Juan, c'è una radio. Emanuel e Juan sono i fondatori e gli animatori di questa micro radio locale, Signos FM 99.1. Dopo cena, quindi, motivati dalla mia curiosità estrema, mi invitano nello studio di Radio Signos, dove c'è una trasmissione in corso che mi invita tra l'altro a raccontare del mio viaggio. Il disco Encanto de Mujer, la voz de Vic Corpos, che mi sta accompagnando anche musicalmente in la tarde. Hablando di accompagnare l'amico Giacomo, que está de pasadita por Mandrán, está escuchando, es italiano, como está compartiendo y disfrutando de todo el folclore de las voces de mi tierra, junto al Beto Lobos y familia allá en FM 5 de Mandrán, así que un saludo enorme para él, ¿eh? Ajá. Passo una serata davvero memorabile, soprattutto per la sua genuinità e semplicità. Riparto al mattino successivo, come al mio solito, mai troppo presto. Vorrei sempre partire all'alba, ma non ci riesco mai. In sella ci vado più o meno sempre verso le 9 o le 10. Ma non è grave, visto che le giornate estive del febbraio argentino in cui mi trovo durano fino alle 20. Dopo 118 km arrivo a Herrera, poi Fernandez e finalmente la banda. Vi racconterò degli incontri avuti alla banda e Santiago del Estero nella prossima puntata. Alla fine di questo pezzo dei Sudor Marica, La vagancia dignifica, Il vagabondaggio da dignità, l'intervista alla professoressa Laura Scoppetta della Scuola Popolare di Tablada. Estudié, no aprobé, me forcé, fracasé, exploté, no gané, fui mi jefe, me eché, emprendí, me fundí, me mentí, me creí, y mi mejor versión fue un tremendo bajón. Pensé que era yo que estaba fallando, pero era el sistema, me estaba engañando. Le dejé la vida por una promesa que nunca se cumple, que siempre se aleja. Ya no me preocupo por hacerme rica, sé que la vagancia es la que dignifica. Lo siento muy fuerte en el corazón, que hasta la depresión me falta cumbia y sudor. Ascoltando Spazio Estate, un programma Don Pierce sulla frequenza di Radio Onda Tutto. Bueno, mi nombre es Laura, yo soy profesora de historia, egresada de la Universidad Pública en Rosario. Il mio nome è Laura, sono professoressa di storia, laureata presso l'Università Pubblica di Rosario. Mi occupo di diverse cose, tra le altre lavoro qui, al Bacillerato, alla Scuola Popolare Tablada, da circa 6-7 anni, come docente e anche come militante del Bacillerato Popolare di Tablada, perché il nostro ruolo qui non è solo fare lezioni, ma portare avanti un progetto politico e pedagogico più vasto. Politico, pedagogico, che è più extenso. Allora, senti. Ti pregunto di spiegarmi, per favore. Ti volevo chiedere innanzitutto la storia di questo posto, ovvero chi lo ha fondato, quando, per quali necessità e perché proprio in questo quartiere di Rosario. A chi? Bien. In questo barrio di Rosario. Bien. Il Baci, ossia questa scuola, nació nel 2013. Questa scuola è nata nel 2013, quando ho iniziato a funzionare come scuola. La scuola è stata fondata da militanti di un movimento sociale chiamato M26, un movimento che militava territorialmente in diversi quartieri della città di Rosario, uno dei quali era proprio questo. Questo quartiere si chiama Tablada, per questo la scuola si chiama Bacillerato Popular Tablada. L'anno prima, nel 2012, era avvenuto un episodio che ha impattato fortemente i militanti di questa organizzazione. Si tratta dell'omicidio di 3 militanti, evento conosciuto come il triplo crimine di Villa Moreno. Villa Moreno è un altro quartiere del sud della città di Rosario, dove questo movimento militava. Erano 3 ragazzi di quel territorio che sono stati assassinati, apparentemente in un episodio nel quale sono stati confusi da gente che lavorava per una banda di narcotrafficanti. Questo evento ha fatto sì che si iniziasse a pensare a quali pratiche seguire sul territorio per poter offrire qualcosa di diverso ai giovani del quartiere. Quindi, in questo quartiere Tablada, in cui era già presente una militanza, si organizzavano assemblee di donne. È nata la necessità di avere uno spazio educativo, una scuola, per dare la possibilità ai giovani di portare a termine gli studi della scuola secondaria, che fa parte dell'educazione obbligatoria in Argentina. Questi giovani non avevano la possibilità di terminare gli studi qui nel quartiere. Per questo c'era questa esigenza da parte di chi viveva qui. Ed è per questo che si decide di creare questa scuola. Non è casuale, tra l'altro. Qui a Rosario c'era già stata un'esperienza simile, in un'altra zona della città, più a nord. Una scuola che si chiama Etica, che è una specie di bacillerato popolare. Questa scuola Etica esisteva già da 2 anni e abbiamo potuto rifarci a questa esperienza. Ci si è potuti ispirare anche ad altri progetti di scuole popolari della città e della provincia di Buenos Aires, che nel decennio del 2000, in un momento di crisi economica, sociale e politica abbastanza profonda in Argentina, erano sorte in diversi quartieri della capitale federale e del grande Buenos Aires. Tenendo presente queste esperienze, si decide di creare questa scuola qui a Tablada. Inizialmente non funzionava in questo edificio dove ci troviamo oggi, si trovava in un locale più piccolo. Io sono entrata a far parte del progetto nel 2016, quando era già in uso questo edificio. La scuola si è sviluppata gradualmente. Quando abbiamo iniziato si davano lezioni solo dal primo anno di studi. Poi, mano a mano che aumentavano le iscrizioni, abbiamo iniziato a impartire anche gli anni successivi. Per questo è stato necessario in un certo momento trasferirsi, perché il locale di prima era molto piccolo. Siamo riusciti ad accedere a quest'altro edificio, che è stato costruito in forma volontaria da chi faceva parte della scuola, perché era una casa di un solo piano. L'organizzazione ha dovuto ampliarlo per poter contare con il numero di aule che abbiamo oggi, e da quel momento si sono sempre susseguite ristrutturazioni e ampliamenti, perché essendo tutto un lavoro volontario c'è sempre qualcosa in più che si può fare, manca sempre qualcosa da aggiungere. Mi pare la storia di tratar di pensare perché è in questo barrio... Sì, parliamo un po' più del barrio, perché è questo barrio. È un barrio... Eh sì, infatti parlami un po' di più del quartiere nel quale ci troviamo. Un barrio che... È un quartiere abbastanza storico della città di Rosario, un quartiere che alla fine del XIX secolo, inizio del XX, era molto vincolato alla produzione di frigoriferi, un quartiere con un'impronta industriale tra virgolette, perché si trattava di un'industria abbastanza precaria, vincolato al modello agroesportatore che si installa in Argentina alla fine del XIX secolo. È un quartiere che è sempre stato abbastanza trascurato dalla politica pubblica della città e che ha sofferto molto l'impatto di quelle che sono state le crisi economiche, la disoccupazione e poi, soprattutto a partire dagli anni 90, l'impatto delle politiche neoliberali. Un quartiere che è andato impoverendosi durante gli anni. È un quartiere che purtroppo è sempre molto stigmatizzato nei notiziari. Compare sempre quando avviene qualche episodio di violenza, come se fosse l'unica cosa che può succedere in questo quartiere, con una visione che considera tutto ciò come l'unico destino possibile per i giovani e le giovani del quartiere. È un quartiere che negli ultimi anni è stato attraversato con tutto ciò a che fare con la crescita del narcotraffico della città. Per questo noi crediamo che sia fondamentale questa scommessa politica e pedagogica, di creare uno spazio in cui si possa pensare anche in altre possibilità per i ragazzi che noi seguiamo, per i giovani che vivono qui. Una mirada come se fosse l'unico destino. Per questo noi pensiamo che la scuola come un progetto più integrale, più ampio, che non comprenda solo la scuola in sé, ma che sviluppi anche altri dispositivi che possano anche portare alla luce altre esigenze e necessità del quartiere e del territorio. Noi pensiamo che la questione del legame con il territorio sia fondamentale quando si tratta di concepire e portare avanti questo progetto. Facciamo tutto ciò che è possibile in questo senso, diciamo. Questo è l'obiettivo e ciò che caratterizza quello che stiamo facendo. Tutto lo che possiamo in ese senso, diciamo. Questo è un po' l'obiettivo e lo che va marcando anche lo che stiamo facendo. Vorrei chiederti se riesci a spiegare un poco ai nostri ascoltatori e alle nostre ascoltatrici questa struttura nella quale ci troviamo. Inoltre anche cosa significa la sigla M26. Che è disegnata sulla facciata principale. Bueno, la sigla M26 che sta nel frente, nel balcone. La sigla M26 che si vede davanti all'edificio sul balcone si riferisce al fatto che il movimento che ha creato questa scuola popolare si chiama Movimento 26 di giugno. Questo nome fa riferimento a una data che è particolarmente significativa per il settore popolare argentino, il 26 di giugno del 2002. È la data dell'assassinio di due militanti del movimento Piquetero nella località di Avellaneda a Buenos Aires. Per chi non lo conoscesse, il movimento Piquetero è stato un attore politico fondamentale a partire dalla seconda metà degli anni 90 e il principio del 2000 in Argentina. Il nome fa riferimento al picchetto, che era sempre stato uno strumento di lotta dei lavoratori, che però si utilizzava vincolandolo al diritto di sciopero, i picchetti davanti alle fabbriche, per esempio, per evitare che entrassero nella fabbrica quei lavoratori che volevano sabotare lo sciopero. Ciononostante, nel contesto politico argentino del decennio del 90, il picchetto appare con un altro significato. Quegli anni in Argentina erano caratterizzati dalla recrudescenza più forte delle misure neoliberali e ciò ha causato una crisi economica enorme, una crescita della disoccupazione a indici che prima non si erano mai conosciuti in Argentina. E quindi alcuni settori collegati ai disoccupati e alla militanza territoriale iniziano a usare il picchetto come loro forma e strategia di lotta. Questo suppone un cambio di direzione, teso a poter pubblicizzare le richieste di un settore che non aveva altre forme di rappresentazione, essendo formato da militanti territoriali, abitanti dei quartieri e operai però già disoccupati e quindi svincolati dal sindacato come canale di espressione e dallo sciopero come strumento di lotta. Quindi iniziano a realizzare questi picchetti e da lì nasce il movimento picchettero. Salta è uno dei posti dove esordisce il movimento picchettero e anche alcune zone del sud dell'Argentina, come reazione alla privatizzazione di YPF, che prima era un'impresa nazionale. E appare anche il picchettero come entità politica. También las militancias territoriales empiezan a usar el piquete como su. Tornando al 26 di giugno del 2002, c'è stata una grande mobilitazione a Buenos Aires. Si blocca il ponte che si chiamava Pueyrredón, che metteva in comunicazione la capitale federale con Avellaneda, una città di provincia di Buenos Aires, e avviene una grande repressione durante la quale vengono assassinati due militanti piqueteros, Dario Santillán e Maximiliano Costechi. Questo fatto causa una grande indignazione. Il 26 di giugno diventa una data significativa per il settore popolare in Argentina ed è ricordata tutti gli anni, in parte in memoria di questi due militanti e in parte come pretesa di giustizia, perché si implementi qualche tipo di castigo, diciamo, a chi ha esercitato quelle repressioni. Il movimento che nasce qui, nella città di Rosario, era vincolato da alcuni movimenti che formavano un fronte a livello nazionale collegato con il movimento picchettero. E quindi si sceglie questo nome, questa data significativa per dare nome al movimento. Per questo questa sigla appare qui, sulla facciata del nostro edificio. Questo movimento attualmente non esiste più, perché si è fuso con un altro movimento, Giro, un altro movimento della città di Rosario, che è formato da coloro che avevano fondato un bacillerato popolare e la scuola di gestione nella zona nord della città. I due movimenti si fondono e si crea un partito, ossia il Partito Ciudad Futura. Però, continuiamo, lì appare la sigla perché è parte della storia e dell'identità di questo progetto. Di fatto noi, qui nella scuola, tutti gli anni celebriamo qualche data che ci sembra importante poter approfondire con gli studenti. Abbiamo, si può dire, un calendario della memoria. Una di queste date è il 24 marzo, l'anniversario dell'ultimo colpo di Stato in Argentina. Un altro il 26 giugno, data in cui approfittiamo anche per spiegare agli studenti la storia della scuola. E invece al suo interno come è composto questo edificio? L'edificio, sì, nosotros decimos es más grande que el otro, tampoco es enorme, pero es el lugar por lo menos que contiene todo. Questo edificio, prima ho detto che è più grande dell'altro. In ogni caso non è neanche enorme, però può ospitare tutte le attività che si svolgono qua. Entrando c'è una specie di spazio comune, che usiamo soprattutto per le assemblee. Poi spiegheremo meglio in che cosa consistono queste assemblee, a cui prendiamo parte tutti noi che facciamo parte del bacillerato, docenti, studenti. Più in là c'è un'aula, c'è una cucina, c'è una parete di separazione, prodotto dell'ultima ristrutturazione che abbiamo fatto. Abbiamo avuto il caso di uno studente in sedia a rotella, che ha potuto frequentare il primo anno al piano terra dove c'era Laura più piccola. Però quando è passato al secondo non avrebbe potuto salire alle altre aule del piano di sopra e quindi abbiamo fatto tutta questa ristrutturazione per ampliare il salone, cosicché questo studente potesse avere uno spazio raggiungibile. Al piano terra c'è il bagno e un piccolo ufficio che usano alcune compagne. Al piano di sopra ci sono due aule più grandi, che di solito si usano per gli anni di studio in cui ci sono più studenti, cioè il secondo e il terzo anno. Questo è più o meno la struttura della scuola. Che cos'è un bacillerato popolare e come funziona? Che differenza c'è tra un bacillerato popolare e una scuola invece ufficiale? Come scuola di gestione sociale. Ci sono diverse questioni. La prima è più formale. Noi ci siamo costituiti come bacillerato popolare, ma anche come scuola di gestione sociale. le due cose hanno alcuni punti in comune. Perché scuola di gestione sociale? Perché noi consideriamo, e così lo considera la legge di educazione, che l'educazione è sempre pubblica, però può essere gestita dallo Stato, dal privato o può funzionare come una gestione sociale, cioè qualche attore della comunità, come può essere un'organizzazione sociale, un movimento sociale, una cooperativa, un sindacato, che sta fuori da ciò che è il mercato e da ciò che è lo Stato. Per questo noi lavoriamo con una gestione sociale, perché questa scuola nasce a partire da un movimento sociale del territorio e a partire dalla richiesta propria della gente che vive in questo territorio. D'altra parte, crediamo che per definire un bacillerato popolare una scuola di gestione sociale sia importante anche la forma di organizzazione che lo regge dall'interno. In questo senso per noi è fondamentale, per esempio, il funzionamento democratico, orizzontale, senza nessun tipo di istanza gerarchica o verticale. Questa è una differenza rispetto a altre scuole che hanno una o un direttore che impone il modello da seguire. Le decisioni vengono prese collettivamente. Siamo in molti a formare parte di questa scuola. C'è il gruppo docente, siamo circa 20 insegnanti, con l'idea di incorporarne di nuove. Però poi ci sono altre compagne che non sono docenti e che però hanno un ruolo fondamentale. Fanno parte di altri spazi che non sono esattamente della scuola in senso stretto. Però la scuola non potrebbe funzionare senza di loro. Per esempio il seminario, uno spazio di accesso a diritti, che spesso accompagna nel loro percorso certi studenti che hanno bisogno di assistenza per poter realizzare i loro studi a causa di difficoltà propriamente pedagogiche o di questioni più personali che richiedono uno spazio di ascolto e di appoggio per poter proseguire l'esperienza scolastica. Risponde anche a certe richieste degli abitanti del quartiere, non necessariamente studenti, che sono in contatto con il posto. Anche queste compagne fanno parte del collettivo, anche se il loro ruolo non riguarda la docenza e svolgono altre funzioni. Il luogo dove si prendono le decisioni è l'assemblea. Abbiamo uno spazio di coordinamento, che però non è di direzione o decisionale. Si è composto mano a mano che la struttura della scuola si faceva più complessa e ci rendevamo conto che era necessaria la formazione di uno spazio che operasse con alcune questioni quotidiane che devono essere risolte e che funzionasse anche come stimolo per alcune istanze, convocare assemblee, rispondere alle inquietudini che sorgono e proporre temi per le assemblee. Però non si tratta di un organo decisionale. Le decisioni sul futuro della scuola vengono prese in assemblea. Abbiamo anche un'assemblea con gli studenti. Durante il ciclo di studi si riunisce una volta al mese, da qui l'importanza di quello spazio più grande al piano terra per poter riunire tutti. In questa assemblea lavoriamo sulle problematiche della vita quotidiana della scuola, come ci prendiamo cura dello spazio, la pulizia, il mantenimento, se è necessario implementare attività o raccogliere fondi, questioni sulla convivenza di cui è necessario discutere per poter stabilire alcune norme e altre questioni sollevate dagli studenti. Non è stato facile far sì che gli studenti capiscano qual è la dinamica dell'assemblea, che si interessino alla partecipazione e portino le loro inquietudini e preoccupazioni. Questo è stato molto importante negli ultimi anni. Poi, per far funzionare la scuola, esistono varie commissioni. Anche queste, come il resto, si sono create mano a mano che sorgeva la necessità e che la scuola cresceva. Quindi, ci sono diverse commissioni. Una di finanza che si occupa delle risorse che abbiamo, se necessario si partecipa a progetti di finanziamento, si organizzano collette, raccolte di fondi, eccetera, perché la scuola non ha un finanziamento ufficiale da parte dello Stato, è una scuola autogestita e per questo dobbiamo affidarci alla nostra immaginazione. E gli insegnanti hanno uno stipendio? Nosotros, o sea, el nuestro trabajo acá como docente o como il nostro lavoro come docenti è volontario e militante. È militante. Però come pagate l'affitto, l'elettricità e via dicendo? Gastos por ahí más de lo que tiene que ver con la edilicia no tenemos mucho, pero sí a veces necesitamos cursos. Le spese per quanto riguarda l'edificio non sono molte. Però abbiamo certo bisogno di risorse per il materiale, per l'organizzazione di attività, gite con gli studenti. E per questo abbiamo trovato varie soluzioni, come per esempio organizzare feste, lotterie, presentarci per progetti alle università statali che poi si servono sia come progetti in sé che per finanziarci. Adesso stiamo cercando di capire se possiamo ottenere qualche collaborazione da parte di simpatizzanti del bacillerato. Tornando alle commissioni, esiste la commissione di mantenimento che si occupa delle riparazioni, di piccole cose a cose più grandi. Per esempio, tra poco ricostruiremo il tetto che ha qualche problema di filtrazione d'acqua. C'è una commissione pedagogica che si incarica di organizzare giornate per poter mettere in comune la didattica o per poter discutere di questioni sulle classi. C'è una commissione di comunicazione che si occupa delle reti sociali, di pubblicizzarci. Un'altra commissione di genere, una delle più recenti e che è nata in conseguenza di certi episodi, ci siamo resi conto che era necessaria una commissione per costruire un protocollo, per pensare come intervenire davanti a determinate situazioni, come intervenire in maniera anche ludica. La questione di genere è sempre stata centrale nella costituzione dei problemi di molte delle materie. La commissione ci aiuta a pensare anche ad azioni più specifiche. Probabilmente mi dimentico di qualche commissione, però più o meno si capisce come ci organizziamo e come funzioniamo. Di norma queste commissioni, quando hanno delle proposte, le portano all'assemblea dove si discutono. Poi ci organizziamo anche per anno scolastico. Sono 3 gli anni del bacillerato e molte volte noi cambiamo di anno a seconda della necessità. Comunque si fanno riunioni tra i professori dello stesso anno, senza una periodicità troppo frequente. Però sono occasioni per mettere in comune i contenuti di un tal anno o dell'altro, le problematiche che sorgono, come assicurare un appoggio agli studenti che lo necessitano. In questo senso abbiamo un sistema di tutoraggio, cioè di professori che seguono specificatamente un piccolo gruppo di studenti. Noi sappiamo che spesso gli studenti vengono da noi con molta voglia di terminare gli studi, però è difficile, non tanto per i contenuti, piuttosto per ciò che implica tornare a studiare dopo anni e sostenere il ritmo scolastico per persone che da anni non facevano parte di un'istituzione che richiede questa regolarità. Queste questioni a volte si intrecciano anche con problemi personali, economici. Siccome il nostro obiettivo è che chi inizia possa continuare, facciamo il maggior sforzo possibile per accompagnarli e stabilire un rapporto vicino, che ci consenta di capire la ragione per cui qualcuno non sta venendo, poter chiamarlo o cercarlo, cercare di capire cosa succede e cosa si può fare perché torni. Questo per noi è fondamentale. Ver che sta passando, che se puede hacer para que vuelva, eso para nosotros es fundamental. Volevo domandarti se sai farmi una piccola descrizione dello studente e della studentessa medio che frequenta questa scuola e magari anche ci racconti qualche storia e anche perché vengono qui al bacillerato popolare invece di andare in un'altra scuola, in una scuola ufficiale. Sì, digamos, la población de estudiantes es bastante heterogénea porque il gruppo di studenti è abbastanza eterogeneo. Questa sarebbe la scuola secondaria per adulti, regolarmente inizia ai 18 anni e abbiamo avuto studenti dai 18 ai 60 anni, non c'è un limite d'età, sono venute persone adulte e anziane. In ogni caso il segmento più numeroso è intorno ai 20 anni circa. Questa differenza generazionale fa sì che in quanto a storie di vita ed esperienze sia abbastanza eterogenea la situazione. Ci sono ragazzi più giovani che hanno lasciato la scuola da tempo e non hanno lavoro o con lavoretti informali. E poi ci sono persone più grandi che hanno esperienze di lavoro più importanti, in fabbrica o in qualche azienda, soprattutto gli uomini. Le donne che vengono per la maggior parte hanno lavori più legati alla cura della persona, di bambini o di anziani, o di pulizia della casa, impieghi domestici. Ecco, è abbastanza eterogenea la situazione, però questo è più o meno il profilo. Perché non vanno a una scuola ufficiale? Io credo ci siano varie ragioni. A volte chi si avvicina al bacillerato lo fa perché la scuola è più vicina, non tanto perché sia una scuola differente. Del resto questa scuola ha aperto qui anche perché non c'era una scuola per adulti qui vicino. Altri vengono con qualche referenza. Ci siamo resi conto che negli ultimi anni la quantità di studenti che viene e termina la scuola è aumentata di molto. E questo è un fatto che si va diffondendo grazie al passaparola. E spesso chi viene ad iscriversi sono familiari, amici o conoscenti di gente che era già passata al bacillerato e che lo ha terminato. Comunque, io credo che spesso l'obiettivo principale di chi si avvicina a noi è portare a termine gli studi secondari, come potrebbero fare in qualsiasi altra scuola. Però qui vengono in contatto con qualcosa di diverso. Spesso è questo ciò che fa la differenza. Ossia, fa sì che non si lascino o che, in certi casi, una volta finito il percorso scolastico, continuano relazionandosi con noi, passano a salutare o ci scrivono, o vogliono fare parte del bacillerato. Di fatto ci sono alcuni studenti che si sono aggiunti al gruppo docente o qualche altro spazio della scuola, perché noi pensiamo l'educazione in maniera differente. In questo senso è differente anche la relazione tra studente e insegnante. Pensiamo nel quadro di quella che si potrebbe chiamare educazione popolare, un'educazione che non si basa sulla differenza di ruoli tra docente e studente. Non crediamo in una gerarchia rigida, cerchiamo piuttosto legami più personali, più affettivi, di pensare alla classe non come un luogo dove veniamo a tirare agli studenti una gran quantità di informazioni che loro dovrebbero ricevere passivamente. Tra l'altro cerchiamo di calibrare l'attività curriculare in base alle problematiche che attraversa il quartiere. Credo che tutto questo contribuisca alla particolarità propria del bacillerato popolare e fa sì che gli studenti restino con noi nei limiti del possibile. Molti di loro sentono proprio questo, di trovarsi in uno spazio del quale si possano appropriare, nel quale possono partecipare alle decisioni, dove si sentono accettati, ascoltati. Questo credo sia fondamentale, non tanto perché vengano, ma perché restino. Para los estudiantes también, y que me parece que está bueno que estas experiencias se puedan replicar en diferentes lugares, me parece que son valiosas. Al polis del país is coming. Viene para acá, quiere weed, quiere money. A mí no me toque a la clica, lo homie. Running, baby, I'm running. Fuck the police del país. Spazio estate viaggi, eccoci tornati in studio. A mí no me toque a la clica, lo homie. Running. Vi abbiamo presentato l'intervista a Laura Scopetta della scuola popolare Bacitta Blada di Rosario, Argentina. È stata un'intervista interessante e con Laura Scopetta poi alla fine, quando l'intervista era finita, sottolineavamo il fatto che senz'altro l'esperienza di questa scuola popolare Bacitta Blada è replicabile in altri luoghi e anche per questo che ve l'abbiamo fatta conoscere e ve l'abbiamo raccontata oggi. Un po' di musica, Trueno, Fuck El Police, l'argentino rapper ventenne. E poi il programma continua con la rubrica di Mirko, che ci presenterà per questa terza puntata Leopoldo Marechal e una parte della sua opera. Restate all'ascolto di Spazio Estate e di Radio Onda d'Urto. No dicen cabeza negra, todos saben quién somos. No nos paran ni con agua, ni con fuego, ni con plomo. Oh, shit. A las 11 hacemos fiesta y a las 12 sale el lobo. Pero no nos va a fallar, porque somos más que ellos. No nos van a agarrar, porque somos más que ellos. Esta es la puta canción del pueblo. No nos callan ni poniéndonos la rodilla en el cuello. Hip hop, pa' que tenga y pa' que guarde. Se rascan el bigote, pero es demasiado tarde. Mire la imacera, ya lo pagaron con sangre. No 11 veces me cago en su chuta madre. Fuck the police del país is coming. Viene para acá, quiere weed, quiere money. A mí no me toque a la clica, lo homie. Running, baby, I'm running. Fuck the police del país is coming. Viene para acá, quiere weed, quiere money. A mí no me toque a la clica, lo homie. Running, baby, I'm running. Y estamos conectados con Espacio Estate. Dagli Appennini alle Ande, uno sguardo italiano alla cultura dell'America Latina. Oggi parliamo di Leopoldo Marechal, il poeta deposto, e del suo capolavoro il romanzo Adam Buenos Aires. Leopoldo Marechal nasce, primo di tre fratelli, l'11 giugno del 1900 a Buenos Aires, nel barrio di Almagro, da Alberto Marechal, uruguaio di origini francesi, e Lorenza Belocchi, argentina di origini basche. Trascorre la sua infanzia tra il barrio di Villa Crespo, dove vive con la famiglia, in calle Montegmont 280, e la casa degli zii, dove passa tutte le estati nei campi di Maipú. Nonostante le grosse difficoltà economiche, la famiglia decide di permettere a Leopoldo di proseguire con gli studi. Comunque il giovane viene contrattato dalla Biblioteca Popolare Alberti, dove inizia a lavorare come bibliotecario e dove conosce alcuni intellettuali che saranno poi suoi amici, come Orazio Schiavo. A questo lavoro si somma, dall'aprile del 1921, l'incarico come maestro nella scuola di Calle Treyes 148. L'anno seguente conosce, oltre a Orazio Schiavo, Ilka Krupkin, José Bonomi, José Fioravanti e altri giovani intellettuali, tra cui l'editore Manuel Glaser, che pubblica il primo libro di Leopoldo, una raccolta di poesie titolata Los Aguiluchos. Nel 1923 Marechal lascia l'incarico da bibliotecario della Biblioteca Alberti ed entra attivamente a far parte del nutrito gruppo di avanguardisti argentini, scrivendo sulla rivista Proa e successivamente sul Martin Fierro, rivista il cui nome verrà scelto per designare il gruppo avanguardista dei martinferristi. L'esperienza di Marechal nel gruppo dei martinferristi si protrasse fino alla prima metà degli anni 30. Si trattò quindi di una tappa giovanile all'interno della carriera artistica del poeta, ma fu anche una tappa determinante, considerando che la raccolta di liriche più espressamente avanguardista del poeta, Días come flechas, giorni come frecce, contiene già allo stato embrionale tutti i temi che verranno sviluppati nelle opere successive. Inoltre, la descrizione, seppure parodica, di quel periodo giovanile fa da ambientazione al suo romanzo capolavoro, Adam Buenos Aires. Sebbene con accenti del tutto personali, possiamo far rientrare l'esperienza avanguardista di Leopoldo Marechal nel gruppo degli ultraisti, soprattutto per quel che riguarda il forte valore estetico accordato alle metafore ardite e per il trattamento del metro e della rima nella poesia lirica. Il 5 di novembre del 1926 Martín Fierro annuncia la pubblicazione di Días como flechas. La raccolta di liriche conferma la posizione di Marechal nel panorama avanguardista, vicina agli ultraisti e al contempo molto personale. L'audacia nell'uso delle metafore e il furore immaginifico creativo caratterizzano lo stile dell'opera. Nel 1926 viaggia in Europa, prima in Spagna, dove entra in contatto con i redattori de La Gaceta Literaria e della Rivista de Occidente, mentre in Francia incontra i pittori e gli scultori del cosiddetto Gruppo di Parigi, Antonio Berni, José Fioravanti, Lino Eneas Spilimbergo, tra gli altri. Nel 1928, al suo ritorno in Argentina, entra nella redazione del giornale El Mundo, appena fondato. Uno dei suoi colleghi di redazione sarà, per un periodo, Roberto Arlt. Durante il suo secondo viaggio in Europa, nel 1929, anno in cui pubblicò Odas para el hombre y la mujer, Odi para l'uomo e la donna, Leopoldo Marechal visitò anche l'Italia, trascorrendo un mese a Firenze per conoscere la vita del suo ammirato Dante Alighieri. Durante questo viaggio inizia anche a scrivere i capitoli iniziali dell'Adam Buenos Aires. Vive a Parigi fino al 1931 e al suo ritorno incontra la sua prima moglie, Maria Zoraida Barreiro. Ha pubblicato, tra l'altro, le raccolte di poesie Labirinto de Amor, nel 1936, Cinco poemas australes, nel 38, El Centauro e Sonetos a Sofia, nel 40, In Descenso y Ascenso dell'Alma por la Belleza, ha dato conto della sua poetica. Nel 1947, l'8 di giugno, muore Maria Zoraida Barreiro, evento che spinge l'addolorato Marechal a rinchiudersi in se stesso e dedicarsi al lavoro e, soprattutto, a riprendere, rielaborare e portare a termine il romanzo iniziato 18 anni prima. Così, il 30 agosto del 1948, onomastico di Santa Rosa da Lima, viene alla luce la Dame Buenos Aires. Nel 1951 inizia a scrivere per il teatro. La prima opera teatrale, Antigona Vélez, viene rappresentata il 25 maggio nel Teatro Cervantes, ottenendo un buon esito. Con quest'opera ottiene nel 1954 il primo premio nazionale di teatro. Coi soldi del premio riesce ad acquistare un appartamento in Calle Rivadavia, dove vive con la seconda moglie, Elvia Rosbacco. Una volta pensionato, poco dopo la caduta del governo del generale Perón, comincia un periodo di isolamento, indotto forse dal clima di indifferenza che gli intellettuali argentini gli riservano, tanto che, parafrasando la famosa definizione di Perón, si autodefinisce il poeta deposto. Nel 1965 Marechal dà alle stampe il suo secondo romanzo, Il banchetto di Severo Arcangelo, che riceve il premio Forti Glori. Nel 1966 vengono pubblicate varie opere di Marechal, la raccolta di liriche Heptameron, il poema del robot, la raccolta di prose Quaderno de Navegación e la commedia Las tres caras de Venus. Patria non deve essere per noi una madre dal petto rigonfio e nemmeno una sorella parallela nel tempo del fiore e della frutta e neanche una fidanzata che ci chiede il sangue di un garofano o di una ferita. Io la vidi spronare i cavalli australi e, bambina, dipingere l'orbita dei suoi occhi. La patria non deve essere per noi nulla più che una figlia e una paura inevitabile. È un dolore che si porta nel costato, senza parola né grido. Per questo mai più parlerò della patria. Da Heptameron. Il 26 giugno 1970 Leopoldo Marechal muore nel suo appartamento di Calle Rivadavia, vittima di una sincope. Poco dopo viene pubblicato il suo terzo romanzo, Megafon o La guerra. Alla sua morte lascia una decina di opere di teatro inedite. Una di queste, Don Juan, è stata recuperata e avrebbe dovuto essere rappresentata nel 1976, ma la dittatura ne proibì la messa in scena. Inoltre, pare stesse lavorando a un quarto romanzo che avrebbe dovuto chiamarsi E l'impresario del caos, l'imprenditore del caos. A più di 30 anni dalla sua morte, le sue figlie Maria de los Angeles e Maria Malena continuano a tentare di recuperare lettere, premi, fotografie e tutti i manoscritti, editi e no, per pubblicarli, per metterne l'accesso agli studiosi e incorporarli alla Fondazione Leopoldo Marechal, che hanno creato nel 1991. La Dame Buenos Aires, primo romanzo e indiscutibilmente il grande capolavoro di Leopoldo Marechal, viene pubblicato dall'editoriale sudamericana nel 1948, dopo 18 anni di gestazione. Il piano dell'opera e gli abbozzi di alcuni capitoli risalgono infatti al secondo soggiorno europeo del poeta, precisamente all'inizio del 1930, quando questi risolveva una profonda crisi spirituale e, da Parigi, guardava la sua Buenos Aires con uno sguardo la cui tensione verso la mistica cristiana lo portava a riconsiderare la sua esperienza intellettuale pregressa e ad imporsi nuovi orizzonti creativi che trascendessero le violente innovazioni avanguardistiche e per lo più meramente formali della cerchia riunita intorno alla rivista Martin Fierro, in cui Marechal fino a quel momento aveva militato. Il suo conseguente, probabilmente inevitabile, allontanamento dal gruppo mantinfierrista figura certamente tra le ragioni della scarsa fortuna del romanzo, che, praticamente ignorato per decenni in patria, fatica tuttora a trovare una degna diffusione e considerazione al di fuori dell'Argentina. Ma a questa difficoltà di ricezione contribuirono, ed è probabile che in certa misura contribuiscano tutt'oggi, altri fattori, i più determinanti dei quali sono in larga misura di carattere extraletterario. Innanzitutto la complessità strutturale, formale e contenutistica dell'opera dovette sconcertare una gran quantità dei primi lettori della Dame Buenos Aires. Romanzo polifonico, strutturato su più piani semantici, capace di affiancare alla descrizione di un'esperienza mistica un umorismo carnevalesco, di ispirazione rebelesiana. Per la sua modernità e per la sua portata innovativa si può considerare certamente uno dei precursori della grande letteratura neobarocca latinoamericana. La narrazione è incentrata sull'esperienza spirituale del protagonista, il giovane poeta Adam Buenos Aires, che, partendo da una situazione di profonda crisi, vive un vero e proprio percorso mistico, il cui culmine coincide con l'abbandono in Cristo, ed è preceduto da un complesso cammino di angustia e di ricerca, per mezzo del quale Adam arriverà a individuare i propri errori e peccati, confessarli e chiedere perdono per essi, nonché iniziare un nuovo cammino verso l'unità creatrice, Dio. Ma attorno a quest'asse centrale, il vitalissimo relato dispiega una gran quantità di altre rappresentazioni, argomenti e temi. Mostra gli amici di Adam, la pittoresca gente del barrio, le strade e le piazze di Villa Crespo, il suburbio di Saavedra, il salotto di una famiglia argentina, la veglia funebre di un gaucho, la locanda di un immigrato italiano, un postribolo, la scuola elementare dove Adam insegna. Facendo uso di un umorismo allegro e incessante, vengono indagate, descritte e criticate le varie figure che popolano Buenos Aires e i personaggi tipici di diverse classi sociali. Si discutono teorie filosofiche e sociologiche. Nel corso della narrazione vengono formulate una teoria filosofica, una poetica e una metafisica. Infine viene proposta una discesa ad Inferos, riscrittura in chiave satirica delle catabasi di Odissea, Eneide e Commedia dantesca, occasione per erigere una critica serrata ai vizi della società argentina. Ecco che, eretto su tutte queste basi, edificato con tutti questi materiali, la Dame Buenos Aires assume la forma del romanzo Sum. Temperata ridente, come lo sono d'autunno, nell'incantevole città di Buenos Aires, splendeva la mattina di quel 28 d'aprile. Sugli orologi era appena scoccata le 10 e a quell'ora sveglia e gesticolante sotto il sole mattutino, la gran capitale del sud era una spiga di uomini che si disputavano ad alte grida il possesso del giorno e della terra. Agreste lettore, se tra le tue virtù vantassi quella del volatile e dalle tue altitudini avessi disteso uno sguardo passeresco sulla città, sono certo che il tuo petto, soggiogato dalla meccanica dell'orgoglio, si sarebbe gonfiato dinanzi alla visione che si offriva in quell'istante ai tuoi occhi di leale portegno. Navi nere e roboanti, ancorate nel porto di Santa Maria de los Buenos Aires, riversavano sui moli la messa industriale dei due emisferi, il colore e il suono delle quattro razze, lo iodio e il sale dei sette mari. Nello stesso momento, stipate della flora, della fauna e del minerale propri del nostro territorio, navi alti e solenne facevano rotta nelle otto direzioni del mare, accompagnate da un aspro addio di sirene navali. Se da lì avessi rimontato il corso del riacciuelo sino agli impianti frigorifici, colà avresti potuto ammirare i recinti traboccanti di torelli e giovenche che si accalcavano e muggivano sotto il sole, in attesa del colpo di mazzuolo tra le corna e dell'abile coltello dei macellai, pronti a offrire la loro ecatombe alla voracità del mondo. Musici treni entravano in città o ne uscivano diretti alle foreste del nord, ai vigneti dell'ovest, alle georgiche del centro e alle pastorali del sud. Da Avellaneda, la ricca di industrie, sino a Belgrano, cingeva la metropoli una cintura di ciminiere fumanti che scarabocchiavano nel gagliardo cielo di periferia sentenze impetuose di Rivadavia e Sarmiento. Rumori di pesi e di misure, tintinnii di registratori di cassa, voci e gesti intrecciati come armi, fuggitivi talloni, sembravano scandire il polso della città tonante. Qui i banchieri di Caglie e Reconquista maneggiavano la folle ruota della fortuna, là ingegneri severi come la geometria meditavano nuovi ponti e nuovi cammini del mondo. Buenos Aires, in marcia, rideva. Industria e commercio la portavano per mano. Da Adam Buenos Aires. La difficoltà di lettura e interpretazione di questa vera e propria summa romanzesca hanno senza dubbio influito sulla percezione di parte della critica del tempo, impreparata alla ricezione di un'opera dalla portata tanto vasta e, per conseguenza, sulla sua diffusione. A questa mancata diffusione e ricezione hanno contribuito pregiudizi di carattere extraletterario, come la radicata vena ideologica cristiana che permea l'opera, la ferma adesione di Marecciale al peronismo e il supposto nazionalismo, se non regionalismo, dell'autore. La verità è che un'opera come la Dame Buenos Aires, pur accordando un'estrema importanza alla scoperta e all'analisi dello spirito criollo e dimostrando una forte preoccupazione per il problema nazionale, presenta tutti i meriti per essere riscattata da una considerazione legata esclusivamente al localismo argentino. L'aspetto religioso, l'umorismo, la grande libertà verbale, l'interesse per il simbolismo, la preoccupazione per un'estetica, sono tutti aspetti che non riguardano solo il popolo argentino o gli abitanti del porto di Buenos Aires. Alle tematiche universali si aggiunge nella composizione del romanzo un atteggiamento costantemente aperto nei confronti delle fonti letterarie e culturali europee, Omero e Sant'Agostino, Aristotele e Rabelais, Platone e Cervantes sono solo alcuni dei pensatori che Marechal convoca per l'edificazione della Dame Buenos Aires. Tra questi riveste estrema importanza uno dei nostri più grandi scrittori, Dante Alighieri. Uno dei libri di cui è composto il romanzo, Il quaderno de tapas azules, il quaderno vestito d'azzurro, presenta infatti una sorta di riscrittura della Vita Nuova del maestro fiorentino interpretata attraverso il prisma degli studi di Luigi Valli sui fedeli d'amore e sul loro linguaggio. Una riscrittura originale e vitale che dovrebbe amplificare gli interessi nei confronti di quest'opera anche e soprattutto nel nostro paese. Concludendo, con la Dame Buenos Aires, opera di estrema libertà compositiva, capace di fondere in se stessa un'impressionante quantità di tematiche, fonti ispirative e generi letterari, Marechal dimostra ancora una volta l'estremo vitalismo del romanzo come genere della modernità. Come sosteneva il grande critico russo Bakhtin, il romanzo non è semplicemente un genere letterario tra gli altri, è l'unico genere in divenire tra generi, da tempo compiuti e in parte già morti. È l'unico genere procreato e nutrito dall'epoca moderna della storia universale e perciò ad essa profondamente affine. Concludendo, con la Dame Buenos Aires, opera di estrema libertà compositiva, capace di fondere in se stessa un'impressionante quantità di tematiche, fonti ispirative e generi letterari, Marechal dimostra ancora una volta l'estremo vitalismo del romanzo come genere della modernità. Come sosteneva il grande critico russo Bakhtin, il romanzo non è semplicemente un genere letterario tra gli altri, è l'unico genere in divenire tra generi, da tempo compiuti e in parte già morti. È l'unico genere procreato e nutrito dall'epoca moderna della storia universale e perciò ad essa profondamente affine. Le opere di Leopoldo Marechal tradotte all'italiano sono Adam Buenos Aires, edito da Vallecchi nel 2010. Il banchetto di Severo Arcangelo, edito da Rusconi nel 1976. Megafon o la guerra, edito dal Corriere della Sera e La Civiltà Cattolica nel 2014. Polifemo, edito da Solfanelli nel 2016. I palazzi di una strada all'inferno. Siamo tornati in studio, le ascoltatrici e gli ascoltatori più attenti si saranno accorti che Spazio Estate non ha una sigla iniziale, però ha una sigla finale, o almeno l'ha avuta per i primi tre episodi. Denti di bocca di uno venuto dal cielo. Il cucciolo Alfredo di Lucio Dalla ci indica che anche questa terza puntata è giunta al termine. Il cucciolo Alfredo avvilito e appuntito, con i denti da lupo tradito, ci pensa un attimo e poi sale. Volevamo ringraziare Radio Papa, Eleonora Lanes, Giorgio, Teresa, Andrea e tutte le voci che abbiamo intercettato e riproposto all'interno di Spazio Estate. Alcuni e alcune tra loro ci hanno mandato anche dei messaggi o hanno scritto dei post su Facebook e Instagram all'indirizzo donpears.it, donpears.it, che anche voi potete utilizzare per scriverci o per condividere i vostri post dell'estate. Sono diversi gli odori per uno che viene da fuori. Un saluto anche a Laura Scopetta, professoressa di storia alla Scuola Popolare di Tablada, Rosario, Argentina, che abbiamo avuto ospite nell'intervista. Ringraziamo anche Fernanda per la voce in italiano nell'intervista. Pistola alla mano, la città si prepara. E un saluto a Radio Signos FM 99.1 di Malbrán, Argentina, per averci ospitato nelle loro frequenze lo scorso febbraio. Senza nessuna ragione, sentendo deciso. Un abbraccio anche da parte di Mirko, che tornerà la prossima settimana con la rubrica Dagli Appennini alle Ande, uno sguardo italiano sull'America Latina. Io sono Giacomo e vi ho presentato il viaggio in bicicletta. Un saluto a tutti e a risentirci alla prossima puntata, tra una settimana, sulle frequenze antagoniste del Gatto Nero. Un colpo sicuro. La musica andina, che noia mortale, sono più di 3 anni che si ripete sempre uguale. Mentre il cucciolo Alfredo canta in modo diverso la canzone senza note di uno che si è perso. Canzone diversa, ma canzone d'amore, cantata tra i denti, da cuore a cuore. Se la sua è cattiveria, io la prendo per mano, ce ne andremo lontano. Se la sua è cattiveria, io la prendo per mano. Sono venuto più volte a Santo Fene, assolutamente sì. Grazie, buon concerto. Spero di tornare a Radio Onda d'Urto al festival, perché mi manca sinceramente e voglio divertirmi. La cultura o è un fatto di popolo oppure non è. Merci mille fois à tous les auditeurs et auditrices de Radio Onda d'Urto. Ciao ciao ciao. Ciao ciao ciao. Radio, Radio Onda d'Urto. Thank you. corsa di bu fino ai muri del suo prato, dove il nostro amore è nato, dove il latte va col caglio, dove il monte è stagionale, dove i fiori li ho portato. Mi sono innamorata di un malgato, l'ho visto in un trattore su a Sant'Anna, gli porterò dei fiori su alla malga, dove munge fa le forme del suo monte di montagna. Mi sono innamorata di un bel cimbro, bastarono dei fiori per baciarlo, mi porterò all'altare a stagionare, come il monte so aspettare, perché adesso è pascolare. Mi sono innamorata di un casaro, mi prese tra le stelle